Quella prima volta non potei andare da solo come altri giorni in cui lei dipingeva alla Raspellier. Vuole venirci anche lei. Pensava, sì, che avremmo potuto fermarci qua e là strada facendo, ma credeva impossibile andare prima a Saint-Jean-de-la-Haye, vale a dire in un'altra direzione, facendo una passeggiata che sembrava destinata a un altro giorno. Seppe invece dall'autista che non c'era niente di più facile che andare a Saint-Jean, dove sarebbe arrivato in 20 minuti, e che potevamo restarci, se volevamo, diverse ore o spingersi molto più in là, dato che da Ketholm alla Raspellier non ci avrebbe messo più di 35 minuti. Lo capimmo non appena la vettura, lanciandosi, coprì in un solo balzo 20 passi d'un eccellente cavallo. Le distanze non sono che il rapporto fra lo spazio e il tempo e variano con esso. Esprimiamo la difficoltà che incontriamo nel raggiungere un luogo in un sistema di leghe di chilometri che diventa falso non appena la difficoltà diminuisce. Anche l'arte ne è modificata, perché un villaggio che sembrava situato in un altro mondo rispetto a un certo altro si trasforma in un suo vicino dentro un paesaggio le cui dimensioni sono mutate. In ogni caso, scoprire che esiste forse un universo dove 2 più 2 fa 5 e la linea retta non è il percorso più breve da un punto a un altro avrebbe stupito Albertine molto meno che sentirsi dire dall'autista come fosse facile andare in uno stesso pomeriggio a Saint-Jean e alla Raspellier. Douville e Ketholm, Saint-Marc-le-Vieux e Saint-Marc-le-Vétu, Gourville e Balbec-le-Vieux, Tourville e Féterne, fino allora prigionieri ermeticamente rinchiusi nella cella di giorni separati come un tempo Meseglise e Guermand, e su cui gli stessi occhi non potevano posarsi in un solo pomeriggio, liberati dal gigante con gli stivali delle sette leghe, vennero adesso a radunare attorno all'ora della nostra merenda i loro campanili e le loro torri, i loro vecchi giardini che l'adiacente foresta s'affrettava a scoprire. Imboccata dal basso la strada della Corniche, l'auto salì in un sol tratto con un rumore continuo come di coltello passato alla mola, mentre il mare s'abbassava allargandosi sotto di noi. Le antiche rustiche case di Mont-sur-Vent accorsero tenendosi stretti ciascuna la sua vigna o il suo rosaio. Gli abeti della Raspellière, più agitati di quando s'alzava il vento della sera, scapparono via in tutti i sensi per evitarci, e un nuovo domestico che non avevo ancora mai visto venne ad aprirci ai piedi della scalinata, mentre il figlio del giardiniere, tradendo inclinazioni precoci, divorava con gli occhi l'alloggiamento del motore. Siccome non era lunedì, non sapevamo se avremmo trovato Madame Verdurin, giacché, escluso quel giorno in cui riceveva, era imprudente capitare da lei senza preavviso. Certo, in linea di principio rimaneva in casa, ma tale espressione che Madame Swann usava al tempo in cui cercava a sua volta di farsi il suo piccolo clan e di attirare i clienti senza mai muoversi, a rischio spesso di restare a mani vuote, e traduceva con un controsenso in per principio, significava soltanto in linea generale, vale a dire con numerose eccezioni. Infatti, non soltanto Madame Verdurin amava uscire, ma spingeva assai lontano i doveri dell'ospitalità e quando aveva gente a colazione, subito dopo il caffè, i liquori e le sigarette, nonostante il primo torpore del caldo e della digestione, quando si sarebbe preferito, attraverso i fogliami della terrazza, guardare il piroscafo di Jersey che passava sul mare di smalto, il programma comprendeva una serie di passeggiate nel corso delle quali gli invitati, sistemati di forza in carrozza, venivano trascinati loro malgrado verso l'uno o l'altro dei belvederi di cui rigurgitano i dintorni di Douville. Questa seconda parte della festa non era d'altronde, una volta compiuto lo sforzo d'alzarsi e di salire in carrozza, la meno gradita agli invitati, già preparati dai cibi succulenti, dai vini pregiati o dal sidro spumeggiante, a lasciarsi facilmente inebriare dalla brezza e dalla magnificenza dei luoghi. Madame Verdurin, faceva visitare questi ultimi ai forestieri un po' come se fossero delle dépendance più o meno distanti della sua proprietà, che non si poteva non andare a vedere dal momento che si era venuti a colazione da lei e, reciprocamente, che non si sarebbero mai conosciute se non si fosse stati ricevuti in casa sua. Questa pretesa di arrogarsi un diritto esclusivo sulle passeggiate, così come sul modo di suonare di Morel e un tempo di Deschambres, e di costringere i paesaggi a far parte del piccolo clan, era del resto meno assurda di quanto non sembri a prima vista. Madame Verdurin parlava con scherno non solo dell'assenza di gusto che secondo lei i Cambremer mostravano nell'arredamento della Raspellier e nella sistemazione del giardino, ma anche della loro mancanza di iniziativa nelle passeggiate che facevano o facevano fare nei dintorni. Così come, secondo lei, la Raspellier cominciava a diventare ciò che avrebbe dovuto essere solo da quando era il rifugio del piccolo clan, Madame Verdurin affermava che i Cambremer, i quali rifacevano continuamente nel loro calesse, seguendo la linea ferroviaria lungo la costa, la sola brutta strada che vi fosse nei dintorni, abitavano nella regione da sempre, ma non la conoscevano. C'era del vero in questa asserzione. Per routine, difetto di immaginazione, mancanza di curiosità verso luoghi che sembravano vieti perché sono vicini, i Cambremer non uscivano di casa che per andare sempre negli stessi posti e percorrendo le stesse strade. Ridevano molto, certo, della pretesa dei Verdurin di fargli conoscere il loro paese, ma, messi con le spalle al muro, né loro né il loro cocchiere sarebbero stati capaci di accompagnarci negli splendidi luoghi un po' segreti in cui ci portava il signor Verdurin, qua sollevando la barriera d'una proprietà privata ma abbandonata, dove altri avrebbero creduto di non potersi avventurare, là smontando di vettura per seguire una stradina non carrozzabile, ma sempre con la ricompensa certa d'un paesaggio meraviglioso. Va detto del resto che il giardino della Raspellière era in qualche modo un compendio di tutte le passeggiate che si potevano fare in un raggio di parecchi chilometri. Prima di tutto grazie alla sua posizione dominante, con vista sulla valle da un lato, dall'altro sul mare, e poi perché anche da un solo lato, per esempio quello sul mare, erano stati aperti dei varchi in mezzo agli alberi in modo tale che di qui s'abbracciava un orizzonte, di là quell'altro. Ogni belvedere aveva la sua panchina. S'andava di volta in volta a sedersi su quella da cui si scopriva Balbec o Parville o Douville. Anche in una stessa direzione le panchine erano state collocate più o meno a picco sulla scogliera, più o meno indietro. Da queste ultime si aveva un primo piano di verzura e un orizzonte che sembrava già il più vasto possibile, ma che si ampliava infinitamente se, proseguendo lungo un piccolo sentiero, si arrivava a una panchina successiva dalla quale si abbracciava l'intero circo del mare. Là si percepiva esattamente il rumore delle onde, che non giungeva invece nelle parti più interne del giardino, dove i frangenti si lasciavano ancora vedere ma non sentire. Questi luoghi di riposo portavano alla Raspellière, per i padroni di casa, il nome di vedute, e in effetti riunivano attorno al castello le più belle vedute dei paesi limitrofi, delle spiagge o delle foreste, molto rimpicciolite dalla distanza, così come Adriano aveva raccolto nella sua villa riduzioni dei monumenti più celebri delle varie contrade. Il nome che seguiva la parola veduta non era necessariamente quello di una località della costa, ma spesso di una dell'opposta riva della baia, che si svelava conservando un certo rilievo malgrado l'estensione del panorama. Come si prendeva un volume nella biblioteca del signor Verdurin per andare a leggere un'ora alla veduta di Balbec, così, se la giornata era limpida, si andava a sorseggiare un liquore alla veduta di Rivebell, a condizione però che non ci fosse troppo vento, perché, malgrado gli alberi piantati su ogni lato, l'aria lì era frizzante. Tornando alle passeggiate in carrozza che Madame Verdurin organizzava per il pomeriggio, se la padrona al ritorno trovava il biglietto da visita di qualche uomo di mondo di passaggio sulla costa, si fingeva felice, ma era desolata d'averne mancato la visita e, sebbene s'andasse ancora da lei soltanto per vedere la casa o a conoscere per un giorno una donna il cui salotto artistico era celebre, ma infrequentabile a Parigi, s'affrettava a farlo invitare dal signor Verdurin per il pranzo del mercoledì seguente. Poiché il turista spesso era costretto a ripartire prima o temeva i ritorni ad ora tarda, Madame Verdurin aveva deciso che ogni lunedì la si sarebbe trovata in casa all'ora della merenda. Queste merende non erano molto frequentate e ne avevo viste di più brillanti a Parigi, dalla principessa di Guermantes, da Madame de Gaillefet o da Madame d'Arpajon. Ma qui, appunto, non era più Parigi e il fascino della cornice non agiva soltanto per me sulla piacevolezza della riunione, ma sulla qualità degli invitati. Incontrare un certo uomo di mondo, cosa che a Parigi non mi faceva alcun piacere, ma che alla Raspellière, dove egli era arrivato da lontano, passando per Féterne o la foresta di Chantepy, mutava carattere e importanza, diventava un incidente gradevole. A volte era una persona che conoscevo benissimo, al punto che non avrei mosso un solo passo per andarla a incontrare dagli Swann. Ma il suo nome suonava in altro modo su quella scogliera, come quello di un attore che siamo abituati a ascoltare in un certo teatro, stampato in diverso colore sul manifesto di una rappresentazione straordinaria e di gala, dove la sua notorietà viene moltiplicata di colpo dall'imprevisto del contesto. Dato che in campagna nessuno si fa problemi, l'uomo di mondo si prendeva spesso la libertà di portare gli amici di cui era ospite, adducendo sottovoce a Madame Verdurin la scusa che, abitando da loro, non poteva piantarli in asso. A costoro, per contro, fingeva d'offrire come una sorta di speciale riguardo lo svago, nel mezzo di una monotona vita di spiaggia, di recarsi in un ambiente intellettuale, visitare una magnifica dimora e fare un'eccellente merenda. Ne risultava subito una riunione di parecchie persone di medio valore, e se un pezzetto di giardino con qualche albero, che parrebbe meschino in campagna, acquista un fascino straordinario in Avenue Gabriel, en Rue de Monceaux, dove solo dei multimilionari possono concederselo, certi gentiluomini che sono di secondo piano in una serata parigina acquistavano inversamente tutto il loro valore in quel lunedì pomeriggio della Raspellière. Appena seduti, intorno alla tavola coperta da una tovaglia a ricami rossi sotto i trumeau monocromi, si servivano loro focacce, sfogliate normanne, barchette di pasta frolla ripiene di ciliegie come perle di corallo, diplomatiche. E subito, dalla vicinanza della profonda coppa azzurra su cui s'aprivano le finestre e che era impossibile non vedere nello stesso istante in cui si vedevano loro, questi invitati subivano un'alterazione, una trasformazione profonda che li mutava in alcunché di più prezioso. Di più, prima ancora di vederli, quando il lunedì si andava da Madame Verdurin, le stesse persone che a Parigi avevano solo sguardi spenti dall'abitudine per gli eleganti equipaggi che sostavano davanti a un palazzo sontuoso, si sentivano battere il cuore alla vista delle due o tre malconce tapissiere ferme davanti alla Raspellière, sotto i grandi abeti. Accadeva probabilmente per la diversità della cornice agreste e perché, grazie a questa trasformazione, le impressioni mondane riacquistavano la loro freschezza. E anche perché la vettura malconcia presa per andare a far visita a Madame Verdurin evocava una bella passeggiata e un costoso forfait concordato col vetturino che aveva chiesto un tanto per la giornata. ma la curiosità un po' emozionata di sapere chi stava arrivando e ancora non si distingueva derivava anche dal fatto che tutti si chiedevano «Chi sarà mai?». Domanda a cui era difficile rispondere perché non si sapeva chi fosse venuto a passare una settimana dai Cambremer o altrove e che è sempre piacevole porsi nel corso di una vita agreste, solitaria, dove incontrare un essere umano che non si vede da molto tempo o essere presentati a qualcuno che non si conosce, smette d'essere il fastidio che sarebbe a Parigi e interrompe deliziosamente lo spazio vuoto d'una vita troppo isolata, nella quale persino l'ora della posta diventa gradevole.